Abbiamo questo nuovo appuntamento del seminario sulla modernità, che ormai è un seminario che sta crescendo e, come sapete, anche spero che il seminario possa avere, dopo la conclusione che dovrebbe essere, almeno mi auguro, per la prossima estate 2011, anche un esito editoriale, perché i materiali sono molto ricchi e molto interessanti. Abbiamo un ospite di prestigio, Ida Domignani, che non ha bisogno di presentazioni, la conoscete tutti e tutti, il lavoro che ha fatto nell'ambito del pensiero della differenza. E io mi riservo di dire qualcosa dopo la sua relazione, dopo l'intervento di Maria Luisa Boccia, che anche lei ha dato contributi fondamentali soprattutto sul tema della differenza politica. E il titolo, come sapete, è Universalismo moderno e politiche della differenza, quindi do la parola a Ida, riservandomi di intervenire dopo. Grazie, e grazie a voi di essere qua. In realtà il tema che mi è stato assegnato è veramente un tema infinito, diciamo, ma è molto... avrei dovuto dire di no. Ecco. Quindi io presenterò solo degli appunti, naturalmente, e qualche punto di discussione. Sono appunti maturati nel corso del tempo, anche nel dialogo col lavoro di Giacomo, al quale farò riferimento, e però sono per l'appunto soltanto dei punti e soltanto uno dei moltissimi tagli che si potrebbero dare al discorso, perché effettivamente la questione del rapporto tra universalismo e differenza oggi come oggi praticamente convoca e convoglia tutte le controversie del dibattito politico-filosofico tardo-moderno. Perciò io dirò, insomma, con una certa modestia qualche cosa. E cominciamo col dire intanto due cose, o col nominare due strettoie della questione. La prima la prendo da una recente, non tanto più recente, insomma, conferenza di Etienne Balibar di pochi anni fa all'Università di Roma III. Lui parlò della questione dell'universale come sfida al pensiero critico, nel senso che quello dell'universale è un classico concetto, è anche un concetto classico, che non possiamo abbandonare per il potenziale emancipativo di cui è portatore, ma di cui d'altra parte non possiamo più fidarci per la connivenza con le forme del dominio occidentale, maschile, borghese, di cui si è rivelato portatore. E questa è la prima strettoia. La seconda strettoia, diciamo, è una strettoia, se questa è una strettoia della critica, diciamo, c'è poi una strettoia della crisi dell'universale, che oggi sembra essersi realizzato non tanto nel suo programma umanistico, di libertà, uguaglianza delle persone e dei popoli, quanto nel lato non programmato di universalizzazione della forma di merce e del consumo. Oggi questo è il reale dell'universale, nel doppio senso dell'universalismo realizzato nel mercato globale e anche però nel senso lacaniano del termine reale. Se per reale intendiamo con Lacan ciò che non smette di resistere alla simbolizzazione, merce e consumo si danno oggi esattamente come reale non simbolizzabile, nella forma proprio di cose, fetici, indiscutibili. Potremmo anche infatti, diciamo, tornare a una lettura più rigorosamente marxiana della faccenda. E invece completamente in discussione il programma originario riguardante appunto individui e popolo, che è stato destabilizzato sia nella prassi sia nella teoria. E diciamo pure che la teoria è in affanno e non trova forme convincenti di ricomposizione del concetto dopo la sua destrutturazione pratico-teorica. Ora, naturalmente, andando indietro nel tempo, cosa che non è nei miei programmi fare stasera, si potrebbe facilmente sostenere e dimostrare che la nozione di universale e il programma universalistico sono sempre stati instabili. Hanno avuto un'efficacia performativa, come è di moda dire adesso, in quanto nozioni instabili e aperte, e solo quando sono state nozioni stabili e aperte. La storia dell'universalismo, notoriamente, non sto dicendo niente di non straconosciuto, è storia di un rapporto tra esclusione e inclusione, un rapporto che è costitutivo del termine, non è un fallimento del progetto, ma è costitutivo del concetto e del progetto stesso. In un rapporto per cui da un lato l'inclusività si costruisce attraverso l'esclusione e dall'altro l'esclusione allarga attraverso successive rivolte l'inclusività. Né d'altra parte gli esclusi, o perlomeno le escluse, hanno mai fatto sconti ai paradossi originari, dell'universalismo. Basta pensare alla storia delle donne durante la Rivoluzione Francese, insomma, per capire quanto per tempo le donne si accorsero del trucco e capirono che aprire l'universale alla esclusione femminile, un'esclusione per l'appunto costitutiva, non significava semplicemente allargarne le potenzialità, ma riformulare interamente la sua base antropologica, ontologica e pratica. Ma dicevo che non possiamo, naturalmente, né io sarei in grado di farlo, andare tanto indietro nel tempo, e quindi io proverò a dire qualcosa sulla crisi del concetto e la difficoltà del pensiero critico di fronte alla quale ci troviamo oggi, e non da oggi, d'altra parte. No? Io credo che si possano individuare, due momenti cruciali di crisi dell'universalismo che conducono all'oggi. Il primo, a partire dagli anni 60 del Novecento, quando la diffidenza nei confronti dell'inclusione supera la rivendicazione a essere inclusi, quando, detto in altri termini, una serie di soggetti esclusi, a cominciare dai movimenti, dal movimento nero e poi quello delle donne, capiscono qual è il prezzo dell'inclusione e si rifiutano di pagarlo, il prezzo essendo un prezzo di omologazione e neutralizzazione della differenza di cui sono portatori. È a questo punto che la rivendicazione della differenza di colore e poi di sesso, o in contemporanea di sesso, si fa più pressante della rivendicazione di uguaglianza, o per meglio dire, poi su questo tornerò dopo, la differenza comincia a opporsi al sostrato identitario che l'universalismo presuppone. Sulla sovrapposizione, nella storia dell'universalismo e della sua crisi, della rivendicazione di uguaglianza con la questione dell'identità, poi dopo magari bisognerà tornare, nel senso che io sono convinta che la vera opposizione non è tra differenze e uguaglianza, così come spesso è stata formulata e tuttora viene quasi sempre formulata, quanto tra differenza e identità. A questo tavolo credo che siamo tutte e tre assolutamente e militantemente in sintonia. Quindi gli anni 60 come primo momento di crisi e critica dell'universale. Il secondo momento, naturalmente, a fine Novecento, è quello del compimento della globalizzazione. Non è solo perché la globalizzazione fa emergere differenze di ogni genere, soprattutto differenze culturali, etniche, che prima erano disciplinate dallo Stato-Nazione e dall'assetto geopolitico mondiale precedente, e che la globalizzazione spezza anche la temporalità progressiva, il senso di una storia progressiva che sottostava al progetto universalistico illuminista. Non c'è più, diciamo così, né il tempo né la temporalità, perché funzioni, diciamo, il dispositivo dialettico che della progressiva inclusione degli esclusi. C'è solo nella temporalità sincronica del globale, io qui comincio a usare una terminologia molto marramayana, diciamo, c'è solo attrito, no? C'è solo attrito, non ci sono più le forme storiche precedenti della mediazione e del contenimento delle differenze. Non ci sono più, o comunque versano in condizioni di inefficacia, lo Stato nazionale, l'ordine internazionale in primo luogo. Allora, io ho presente, diciamo, e terrò presente adesso per il passaggio centrale del mio discorso, il libro di Giacomo, Passaggio a Occidente, perché io lo prendo qui e lo considero, l'ho anche considerato in passato, il testo che fotografa e problematizza, diciamo, questa situazione al passaggio di secolo tra Novecento e Nuovo Millennio, e propone anche un'idea teorica di uscita dall'impasse con la formula dell'universalismo della differenza, di cui poi dirò qualcosa. Allora, secondo me in quel libro c'è un percorso, insomma, che anche avvalendosi di quello che della differenza ha detto il pensiero della differenza sessuale in Italia, c'è un percorso che registra la necessità, anche filosofica, in primo luogo necessità filosofica, di passare da una nozione sociologica a una ontologica della differenza. Quindi in realtà di cominciare a pensare la questione della differenza e non delle differenze come problema del politico, proprio come problema del politico. Per politico io qui intendo tutto, diciamo, dall'ontologia politica fino ai problemi di governo e di gestione democratica. Allora, la differenza che in quel libro viene messa a tema è insieme differenza sessuale, culturale, antropologica, etnica, e non perché di questo venga fatto un polpettone, come accade generalmente ogni volta, per esempio, che nel dibattito politico qualcuno preso da, diciamo, smania di dimostrazione democratico pluralista comincia a fare, no? Comincia a fare l'elenco. Non è questo il punto, lì invece il punto è cercare, diciamo, il tratto comune a queste differenze, che sul piano logico fa della differenza come concetto la spina nel fianco contemporaneamente dell'universalismo, dello Stato moderno e dell'individuo moderno. Quindi, diciamo, concettualmente la differenza nel suo, nella sua fenomenologia variegata e talvolta incommensurabile, perché non penso che, appunto, che la differenza sessuale non sia commensurabile alle altre differenze, però c'è un tratto comune sul piano logico che può costituire la base per un'analisi della differenza come spina nel fianco delle categorie politiche moderne, e contemporaneamente può indicare una via d'uscita. Allora, perché spina nel fianco delle categorie teoriche, politiche moderne? Beh, spina nel fianco dell'universalismo, perché la differenza ripresenta la dimensione incarnata e situata del soggetto sulla cui rimozione l'universalismo si è affermato. Spina nel fianco del Leviatano, perché la differenza riporta a galla le appartenenze e le credenze sulla cui neutralizzazione si è fondato il Leviatano moderno, si è affermato il Leviatano moderno, spira nel fianco dell'individuo moderno, perché l'individuo moderno notoriamente è una costruzione basata su un presupposto di neutralità, e la differenza, in primo luogo la differenza sessuale, ma anche la differenza, se la vogliamo, etnica o razziale, che la vogliamo chiamare, impugnata dalla parte del soggetto, divide l'individuo moderno, ne fa appunto ossimoricamente un individuo non più uno ma diviso, lo ferisce, lo decentra, come si dice, dall'interno del suo stesso io. Dunque, se la differenza è capace di minacciare l'universale, l'individuo è la forma per eccellenza di mediazione tra individuo e universale che è stata nella modernità lo Stato, chiaramente la differenza è il problema del politico occidentale, almeno di quella costruzione del politico occidentale moderno, centrata sulla logica dell'equivalenza e dell'identità. Io qui questo lo do naturalmente per assodato, insomma non ho il tempo di motivarlo, casomai ci torniamo se ci sono problemi da chiarire nel dibattito. È il caso però di dire subito che la differenza nella sua variegata fenomenologia, per l'appunto, è ciò che si oppone a questa logica dell'equivalenza e dell'identità, ma è anche ciò che può esserne e che spesso ne viene risucchiata. E questo accade ogni volta che la differenza si sostanzializza, si ipostatizza, diventa un nome proprio e appropriabile, diventa una bandiera identitaria. Questo è un punto di importanza capitale, su cui per l'appunto sia Giacomo sia Maria Luisa si sono largamente esercitati nel corso degli ultimi anni. È un punto di importanza capitale perché ciò che, diciamo, distingue una politica della differenza intesa come politica anti-identitaria, decostruttiva dell'identità, è una politica della differenza che invece ripiomba esattamente nel paradigma identitario e dell'equivalenza a cui si vorrebbe opporre. Questa è una dialettica che non è soltanto teorica, anzi proprio una dialettica che si è dispiegata nel corso degli ultimi decenni. Abbiamo avuto moltissime battaglie condotte in nome di una differenza che sono state in verità battaglie condotte in nome di un'identità, e spesso anche di un'identità chiusa e arroccata. Particolarmente, naturalmente, alcune soggettività emergenti sul piano, sul livello dell'identità etnica, ma non solo quelle, c'è per esempio moltissima politica identitaria anche nel femminismo internazionale. Diciamo che il pensiero della differenza, diciamo, la concezione della differenza, è per l'appunto ciò che divide anche il femminismo. Io qui ne presento una versione appunto anti-identitaria e volta precisamente all'apertura, se non alla destrutturazione dell'identità, ma ce ne sono versioni viceversa spiccatamente identitarie, e questo è un altro punto importante di discussione. Ma insomma, nel libro di cui sto parlando, Giacomo cercava anche di superare le due risposte sperimentate negli ultimi decenni dalla teoria politica al problema dell'emersione di tutte queste differenze e della complessità sociale che ne derivava, due risposte sostanzialmente che si sono articolate naturalmente in vario modo, ma sono perfettamente distinguibili sul piano concettuale: la politica universalista dell'identità di stampo illuministico, più che altro il modello francese, diciamo che ancora è perfettamente riscontrabile nelle politiche dello Stato francese. Io penso per esempio sempre emblematicamente alle decisioni sulla possibilità o meno di portare l'uso del velo, di portare il velo, che sono state prese in Francia. Comunque, insomma, è una politica universalista che omologa e neutralizza. Diciamo che include nella cittadinanza al prezzo di una buona dose di rinuncia all'identità di partenza e di adeguamento al modello universalista. E l'altra invece è la politica anti-universalista delle differenze, al plurale, spesso, come ho detto prima, capovolte in identità irrelate tra di loro, che invece è più forte, diciamo, nelle politiche e nei paesi di matrice anglosassone, dove diciamo il valore della tolleranza, poi no, quello che c'è dietro e che governa, diciamo, sorregge questo modello di pluralizzazione democratica che tollera le differenze interne al prezzo, diciamo, non chiede come in Francia il prezzo dell'omologazione, in compenso però chiede il prezzo di una certa autoghettizzazione, perché si creano poi queste enclave, diciamo, identitarie che vengono tollerate nel pluralismo democratico, ma non si sciolgono, diciamo, in una soluzione per l'appunto di tipo universalistico. Allora, la proposta di quel libro invece era quella che Giacomo chiamava di un universalismo della differenza, che è un completo ribaltamento naturalmente della logica identitaria del pensiero politico moderno. E tant'è vero che lui stesso indicava faceva di questa proposta un vertice ottico, proprio una lente, diciamo, per rivedere i problemi della modernità da un'altra prospettiva. Un criterio guida in grado di opporsi tanto al logos identitario dell'universalismo egemonico quanto alle etichette postmoderne del nomadismo e della disseminazione, nonché alle soluzioni progressiste della redistribuzione in quote della torta democratica a cui facevo riferimento poco fa. Adesso io prenderò sul serio questo progetto e gli farò una critica, diciamo, a questa formula proposta da Giacomo, e poi accennerò a un'ulteriore problematizzazione del discorso sulla scorta del dialogo tra Judith Butler, Ernesto Laclau e Slavoj Žižek, che è stato recentemente tradotto da La Terza, che comunque è un libro che circola, insomma, da parecchio tempo e che è dedicato appunto a questioni che riguardano l'universalismo, l'egemonia e la contingenza. Allora, l'obiezione, che non è un'obiezione, è uno sviluppo del discorso, insomma, che rivolgo a Giacomo, nasce appunto da un'obiezione che gli faccio in vicinanza, una vicinanza d'altra parte testimoniata dal suo libro, dove lui fa riferimento più volte al pensiero della differenza italiano, cogliendone, secondo me, il portato per l'appunto ontologico e non sociologico del discorso. E la mia obiezione, o la mia domanda, non riguarda la formula universalismo della differenza, sulla quale concordo, bensì il come, e quindi le politiche, diciamo, quale politica o quali politiche possono corrispondere a questa strategia teorica. Questione non semplice, sulla quale, per esempio, il femminismo italiano si imbatte da molti anni, io lo dico quindi a partire da un'esperienza. Perché è così difficile tradurre in politica e in politiche efficaci l'idea guida, il concetto chiave di un universalismo della differenza, cioè di un universalismo anti-identitario, anti-seriale, anti-omologante, eccetera? Beh, secondo me, perché farlo comporta un ulteriore passo di smontaggio delle forme della mediazione che sorreggono la politica moderna. Cioè, l'universalismo naturalmente si è avvalso e si è appoggiato di forme concrete di mediazione, forme istituzionalizzate di mediazione, tra le quali in primo luogo, per dirne una, quella del diritto, della formalizzazione giuridica e della declinazione in forma di diritti delle conquiste che via via andavano nel senso della realizzazione del progetto universale, universalistico, e si è avvalso anche di strategie discorsive di un certo tipo. Per esempio, anche su questo non mi posso fermare più che tanto, per esempio una certa strategia di nominazione dei soggetti, di nominazione che appunto tende a riconoscerli ma anche a fissarli in un nome. Queste sono, diciamo, mosse molto potenti dell'universalismo, che non si scardinano facilmente. E allora, politica della differenza e creazione di altre forme della mediazione. Per esempio, so che anche su questo non siamo qui tutte d'accordo, ma io di questo sono convinta, per esempio un tentativo di deflazione del diritto e della importanza, diciamo, sempre più dirimente, sempre più decisiva che il diritto assume oggi per la politica. Oggi la politica è diventata politica del diritto sostanzialmente, e una politica della differenza, per come almeno ha tentato di fare il femminismo italiano, passa per esempio per una deflazione del diritto e della messa in diritti di ogni cosa. Ma non solo da questo, passa per una, per esempio, per una, su questo so che Giacomo è d'accordo, ma poi si tratta di farlo però, passa per strategie relazionali che tradiscono, diciamo, l'ordine sociale costituito, o che comunque in qualche modo ne prescindono, e passa per una guerriglia linguistica, altrimenti detta strategia di risignificazione costante, che appunto decostruisce e apre continuamente i nomi propri entro cui il discorso dominante tende a chiudere la fenomenologia sociale. Queste, diciamo, sono tutte pratiche di trasformazione sociale, di trasformazione discorsiva, di trasformazione dell'ordine simbolico, che comportano per l'appunto una continua messa in pratica del discorso della differenza. E non c'è, diciamo, altro modo di far funzionare quello che tu, Giacomo, chiami il vertice ottico della differenza, se, come pura idea, diciamo, se non mettendola alla prova e sperimentandola appunto sul terreno delle pratiche. Naturalmente io su questo ho accennato questi esempi che riguardano il diritto, le strategie di nominazione, la narratività dell'esperienza, la relazionalità, eccetera, ma il primo esempio che posso fare, naturalmente, e che devo fare, anche se lo faccio per ultimo, è precisamente quello del conflitto di sesso, no? Cioè non c'è nessun modo, diciamo, di concettualizzare il portato del pensiero della differenza sessuale che prescinda dalla sua matrice conflittuale pratica. Ogni volta che si prova a fare questa operazione, diciamo, di universalizzazione del discorso della differenza sessuale, spuntandolo dalla sua matrice di conflittuale nei confronti della sessualità maschile, si finisce col ripetere la mossa classica dell'universalizzazione, cioè lo si neutralizza. E questo è certamente un grosso problema, non solo sul piano teorico, è proprio secondo me un grosso problema sul piano pratico delle relazioni, per esempio, tra donne e uomini, relazioni politiche, relazioni intellettuali. Cioè, insomma, noi viviamo in un paese in cui gli uomini prescindono molto da quello che le donne dicono, no? Questo è un problema, secondo me, particolare dell'Italia, almeno io lo vedo agire qui a un livello a cui non lo vedo agire altrove. E quindi diciamo, partiamo da questo problema di una scarsa fiducia, di una scarsa di uno scarso peso della parola femminile sulla scena pubblica. Ma se a questo aggiungiamo che l'unica altra mossa che talvolta viene fatta è quella di una presa in considerazione spoliticizzante del problema, la cosa può diciamo aggravarsi invece che migliorare. Naturalmente è sempre stato molto nelle mani di noi donne tenere aperta appunto la valenza pratica del discorso della differenza e la valenza conflittuale, quindi la critica costante, diciamo, che il discorso della differenza fa al discorso, tra virgolette, maschile, patriarcale, fallocentrico, come lo vogliamo chiamare. Però il problema, soprattutto appunto in un contesto come quello italiano, sarebbe anche di una risposta maschile, diciamo, consapevole della propria differenza e quindi in grado di rispondere al conflitto aperto dalle donne facendo dei passi avanti, non di neutralizzazione, ripeto, ma di innalzamento della posta in gioco. Questo è il primo problema che volevo porre. L'altro problema gli altri problemi, anzi, sono due, e mi riportano di nuovo un po' all'inizio del discorso, diciamo. Potremmo dire questo, tornando appunto all'inizio del discorso, che un altro modo, diciamo, per raccontare una certa parabola del discorso universalistico è che fino a un certo punto il discorso universalistico funziona nei termini della coppia universale particolare, generale particolare. E finché funziona così, funziona anche un certo suo andamento dialettico, per l'appunto una certa capacità inclusiva, no? Via via l'universale assorbe l'emergenza di differenze o soggettività o situazioni particolari. Quando è che questo meccanismo non funziona più, secondo me? Torniamo di nuovo, come dicevo prima, agli anni 60, quando le differenze si costituiscono come soggettività politica e diventano ciascuna portatrice di un discorso o di una pretesa universale. Questo secondo me è molto importante ed è molto, molto, molto frainteso o disconosciuto nel dibattito politico comune, diciamo, perché tuttora si tende a leggere l'emergere dei discorsi soggettivi fatti in nome di una differenza come discorsi di soggetti particolari, dove invece il problema è che per l'appunto non lo sono. Il discorso che facevano i neri negli anni 60 non era un discorso particolaristico, anzi, e il discorso che abbiamo fatto come donne, io tengo conto qui di varie differenze, naturalmente, nel femminismo internazionale, però su questo penso di poter dire che veramente la sostanza generale del discorso femminista dagli anni 60 in poi è una pretesa universalizzante del discorso della differenza. Cioè, il punto non è l'inclusione di una particolarità di sesso dentro l'uni verso, per l'appunto, neutro, e invece l'affermazione della valenza universale che ha la differenza. Quindi è in un certo senso un tentativo di riscrivere il concetto dell'universale. Naturalmente su questo si potrebbe molto discutere, io stessa lo dico con le molle, perché a lungo noi abbiamo per esempio molto difeso la parzialità proprio, come una parzialità rivendicata da parte delle donne come matrice appunto di conflittualità. Però io penso, ho sempre pensato, che nel discorso della differenza, specialmente nelle declinazioni filosofiche che ha avuto il discorso della differenza, penso a Lucy Ligarai e a larga parte del femminismo italiano, la pretesa di riscrittura dell'universale sia stata molto forte, molto prevalente. Allora, ora su questo si gioca proprio il fraintendimento politico costante sul piano delle nostre vite vissute, diciamo. Cioè questa continua riduzione del discorso della differenza a questione di genere particolaristica che deve trovare, diciamo, il suo posto dentro una strategia sintetica e che proprio fraintende completamente la valenza, per l'appunto, universalistica del discorso della differenza, cioè la valenza di riscrittura generale del discorso politico da parte del discorso della differenza. E naturalmente io qui non sono per niente una specialista, ma ne so abbastanza per poter dire che lo stesso tipo di fraintendimento ha governato a lungo il dibattito sugli studi postcoloniali, no? Ci è voluto del tempo perché si capisse che, per l'appunto, la valenza che il discorso postcoloniale è portatore di una valenza universalistica, non avanza una rivendicazione particolaristica. Allora, è qui che per l'appunto si apre la vera crisi dell'universalismo, perché ci sono discorsi dell'universale in conflitto tra loro. Tutti questi discorsi aspirano, diciamo, ad una valenza universalistica, ad un impatto, ad un effetto a quel livello lì. Allora, naturalmente, qui si aprono due problemi. Uno riguarda più in particolare la questione della differenza sessuale, ora dirò qualcosa su questo, e l'altro riguarda la questione di come si fa a continuare a lottare per l'universale quando sono in campo diverse visioni dell'universale stesso. Quindi, prima di chiudere su quest'ultima questione, io dico qualcosa invece sulla questione della differenza sessuale, se la si possa considerare una questione con valenza universale e in che termini. È un problema che appunto pone Judith Butler nel suo dialogo con Laclau e Žižek, che ho citato prima. La mia risposta differisce dalla sua. Lei è convinta che non si possa parlare di universale a proposito della differenza sessuale, perché la differenza sessuale non è altro un paradigma che risulta dal più generale paradigma dell'ordine simbolico e delle relazioni di parentela. Siccome lei milita per la storicità dell'ordine simbolico, Judith, e io con lei, anche io penso che l'ordine simbolico non è fisso ed eterno, come sosteneva Lacan, ma che sia in qualche modo storico e storicamente modificabile, sottolineo in qualche modo. Ma non mi spingo a sostenere quello che invece sostiene Judith, e cioè che l'ordine simbolico è completamente relativo. Cioè, per esempio, il fatto che oggi esistano molte famiglie miste, molte famiglie fatte da omosessuali, non nucleari, cioè questo manda all'aria il paradigma dell'Edipo. Ecco, io credo che la questione della destabilizzazione dell'ordine simbolico incentrato sull'Edipo freudianamente o sul nome del padre lacanianamente sia una questione enorme sulla quale io non ho una risposta, certamente è una questione intercettata dalla questione culturale, dalla questione antropologico-culturale. Certamente chi ha studiato meglio di me l'antropologia ne sa molto più di me su questo punto. Quindi diciamo che certamente le condizioni della globalizzazione, proprio perché la globalizzazione mette in sinergia e in attrito le differenze culturali insieme alle altre, complicano certamente il problema di pensare la differenza sessuale in relazione a strutture simboliche fisse ma concepite nella cultura occidentale. Tuttavia io non penso che questo basti a relativizzare la differenza sessuale. Naturalmente è chiaro perché Judith Butler la relativizza, perché lei è convinta che sotto il paradigma della differenza sessuale ci sia in realtà il paradigma dell'eterosessualità normativa e che quindi legittimare il paradigma della differenza significa anche legittimare e universalizzare il paradigma della eterosessualità normativa. Io non la vedo così, non vedo la differenza come sottoprodotto dell'eterosessualità normativa, come fa lei. Quindi penso che la differenza sessuale sia effettivamente un significante universale e come tale portatore di effetti sul discorso dell'universale e dell'universalismo, anche se assume significati contingenti ed è soggetto a significazioni diverse in contesti diversi e in contesti culturali diversi. Comunque, che abbia ragione Judith o che abbia ragione io, non cambia molto rispetto all'altra questione che ponevo e con la quale concludo. La questione cioè di come si fa oggi a lottare per un ideale universalistico, chiamiamolo così, per l'universalismo o per l'universale, in presenza di diverse visioni dell'universale stesso in campo. Allora, anche qui mi servirò, diciamo, polemicamente, così solo retoricamente, di quello che dice Butler per dire qualche altra cosa. La soluzione che dà Judith è una soluzione di democrazia radicale, di radicalismo democratico, insomma, nel quale peraltro il suo impianto filosofico alla fine si iscrive interamente, e lei dice quello che dobbiamo fare è lottare continuamente per una traduzione di tutte le strategie di lotta, di tutti i soggetti, di tutte le differenze, fare continuamente questo lavoro di traduzione culturale che è solo facendo questo gran lavoro di traduzione culturale, di messa in relazione delle varie differenze e delle varie nozioni di universalismo in campo, si potrà effettivamente riscrivere nei fatti una concezione più inclusiva, più vasta e più aperta all'umano dell'universale stesso. Diciamo un universale decostruito e sgombrato dei suoi elementi di dominio più importanti. Naturalmente a me verrebbe da risponderle che questo è ovviamente quello che facciamo tutti i giorni, cioè è precisamente ciò che resta della sinistra non istituzionale, perché quella istituzionale non lo fa, però quello che resta della sinistra non istituzionale è esattamente questo lavoro di messa in sinergia, di messa a confronto delle istanze dei soggetti radicali, che per l'appunto non si pensano come soggetti particolari, ma come soggetti portatori di un progetto universalistico. E però questa soluzione, prettamente inscrivibile appunto in una forma di radicalismo democratico americano, secondo me non risponde, o per meglio dire elude, il problema principale, che è quello delle forme di iscrizione, insomma, che una riscrittura dell'universale può o non può trovare. Qui ci ritroviamo alle prese in qualche modo con la questione del diritto e della legge, che ingombra sempre questo problema e che non si può, secondo me, saltare. E d'altra parte io penso che ci troviamo di fronte anche a un altro punto sul quale chiudo, che per me è un punto aperto, è una domanda, ed è la questione del rapporto tra immanenza e trascendenza, che insomma mi pare che non a caso dilaghi ormai nel dibattito politico, più che filosofico politico, come questione non rinviabile. Insomma, la soluzione Butler, la chiamo così, ripeto, per strategia retorica, per comodità, ma la soluzione, diciamo, di un buon radicalismo democratico che tenga gli occhi aperti sulle soggettività emergenti, faccia un lavoro di traduzione culturale tra i progetti di cui sono portatrici e continuamente sposti la trincea dei diritti, perché poi quella è la questione, continuamente allarghi i diritti e continuamente disturbi il potere e soprattutto le strategie attraverso le quali il potere si riproduce sempre uguale performativamente. Questa strategia è il minimo, naturalmente, che possiamo fare, e certamente non possiamo fare a meno di farla. Io mi chiedo però se metterla in questi termini, che sono termini per l'appunto di immanenza radicale del problema, non elimini dal campo un problema che invece è cacciato dalla porta, mi pare che sia rientrato dalla finestra. Allora, il problema è, diciamo, quella dose di trascendenza del politico o degli ideali politici o delle grandi narrazioni, come lo vogliamo chiamare, oppure della teologia politica, se la vogliamo chiamare, invece vogliamo ricorrere a un gergo più spiccatamente filosofico, che è stato, secondo me, costitutivo della modernità, senza questa dose, diciamo, senza questo elemento che io mi limiterei anzi a chiamare come un elemento di verticalità, non voglio neanche esagerare con i termini che ho appena usato, trascendenza, teologia politica, eccetera. La modernità non avrebbe retto. Adesso possiamo cambiare il nome, per esempio possiamo chiamarlo con Žižek l'altro, no? il grande altro, lacanianamente. Possiamo chiamarlo invece nei termini, per esempio, di un certo dibattito femminista italiano, il problema dell'autorità, no? Come problema distinto dalla mappatura del potere microfisico foucaultiano. Ecco, ma in ogni caso, diciamo, questa forma di ideale regolativo, trascendenza, verticalità, funzionamento dell'ordine simbolico del grande altro, insomma, senza rimettere in campo un elemento di questo tipo, io credo che le strategie di democrazia radicale puramente giocate su un piano di immanenza e contingenza non possono funzionare, e che quindi, senza rimettere in campo un elemento simbolico molto forte, anche il progetto universalistico rischia di non avere più una rinascita credibile. Ecco. Grazie. Adesso ascoltiamo Maria Luisa Boccia e poi cerco di dire qualcosa anch'io. Sì, è molto difficile, infatti ho dei fogli abbastanza disordinati di fronte, perché ho ascoltato Ida e devo intersecare la riflessione, il dialogo con quello che lei ha detto, con i pensieri che io ho fatto, diciamolo, partendo da letture comuni, su questo ci eravamo sentite, in particolare questi testi di dialogo tra Butler, Laclau e Zizek sul concetto di universale. Provo a dire, allora, primo, questa questione, parto proprio da una definizione che usa Butler, in uno dei suoi saggi di questo volume, rispetto a come siamo messi oggi con il concetto moderno dell'universale. Butler afferma che il nostro esilio nella eterogeneità è irreversibile. Non c'è un linguaggio universale, nemmeno una struttura, nemmeno una mancanza costitutiva che è il punto di costruzione del simbolico e del simbolico appunto moderno. Cosa comporta assumere, se è vero che è irreversibile, questa eterogeneità? A me sembra che nel discorso che fa Butler, ma io direi nei discorsi della prevalenti, e io faccio un'eccezione molto netta su questo rispetto al pensiero della differenza sessuale, di contesto fondamentalmente italiano e francese, ma direi italiano prevalentemente. Il mio riferimento, come sapete, è sempre più, come molte sanno, a Carla Lonzi, che non al pensiero della differenza italiano che assume genealogicamente invece Lucy Garay come riferimento. Fatta questa eccezione, e poi ci torno, appunto, a me sembra che nei discorsi di critica all'universale, che assumono appunto la differenza, o meglio le differenze, come la posizione da cui muove questa critica, e quello che diceva Ida nella ricostruzione, i due momenti sono quelli, anni 60 e poi la globalizzazione, si è prodotta appunto una critica che va fondamentalmente contro il carattere, l'universale è imprescindibilmente normativo e quindi come tale non può che essere omologante e assimilazionista, cioè la differenza non può che essere o ricondotta a identità o appunto mediata nella forma universale, neutralizzata rispetto a quel movimento verso l'uno, per l'appunto. Quindi necessariamente dichiarare irreversibile che non c'è più condizione per un linguaggio universale, per una forma dell'universale, neppure appunto per la mancanza costitutiva, vuol dire che siamo in un contesto di differenze, al plurale e non di differenza, di particolarità, di pluralismo ideologico, sociologico, politico, culturale, chiamatelo, definitelo come volete, fondamentalmente in due modalità, quella corporativa e quella identitaria. Non coincidono, ma in qualche modo si accompagnano. Contesto di pluralismo che, diversamente da quello che si può immediatamente diciamo associare a questo concetto, non esclude, ma anzi si coniuga con il fondamentalismo, anzi anche questo al plurale, con i fondamentalismi, perché i fondamentalismi non sono altro che una versione forte, cioè la versione debole, cioè la versione forte di questa riconduzione a un contesto eterogeneo, pluralistico, di differenze, proprio sono i punti di resistenza più radicale al movimento verso l'uno. Quindi contesto di moltiplicazione, di frammentazione, in cui appunto non c'è solo il relativismo, c'è relativismo e c'è fondamentalismo. Il conflitto infatti è fra queste due modalità. Resiste E questo è il dibattito tra questi tre voci, questi tre pensatori, questi due pensatori e una pensatrice di quel volume, proposto, diciamo, intorno a una formula, persiste e permane la forma vuota dell'universalità, che Zizek e Laclau, appunto, indicano come il campo di battaglia per l'egemonia. Cioè c'è un'egemonia, una lotta rispetto a questa pluralità, no? Per poi quale prevale, quale e come si determina l'ordine gerarchico, diciamo in qualche modo. Se la formula invece che adotta Butler, quella già richiamata da Ida, che in questo conflitto di differenze al plurale, l'universalità è una degli oggetti, potremmo, delle poste in gioco su cui avviene la competizione. Che cos'è l'universalità? Come, no? Questa è. Però che presa, qui un po' io do una lettura diversa da quella di Ida, non è, in qualche modo la stessa, diciamo, lo stesso movimento, la stessa trascendente, no? Dal concreto, dal particolare, che appunto il termine plurale indica, dal radicamento in quella condizione, in quella storia, in quella cultura, in quella viene messo in questione. Cioè non siamo di fronte a un movimento di trascendenza delle differenze. Ecco. Quindi, no, più dicevi, si è frainteso che i movimenti, questi soggetti, ponevano la differenza come universale. In realtà è molto ambivalente. E infatti io condivido un'affermazione, diciamo, descrittiva, perché invece sul piano descrittivo io non condivido l'impianto teorico di Butler, ma sul piano descrittivo fa un'analitica anche della condizione, del contesto in cui siamo, in cui ovviamente ci sono molte cose convincenti. Lei dice tutte le affermazioni di universalità che oggi sono in campo, che appunto si contendono in questo campo di battaglia che è la forma vuota, poggiano su un equivoco, sono tutte equivoche, e infatti secondo me poggiano su un equivoco, perché contraddicono, no, cioè un movimento che contraddice la stessa aspirazione a trascendere la propria differenza, diciamo in qualche modo, cioè, e prevale quella invece del radicamento nella differenza, dell'affermazione, del fondamento identitario della differenza. Allora, se il contesto è questo, la questione di fondo è se è possibile in questo contesto, io proprio su questo veramente è una domanda che pongo, recuperare il concetto di universale. E recuperare il concetto vuol dire se è possibile sottrarlo al movimento a cui quel concetto è stato sia teoricamente, sia storicamente, politicamente, sempre orientato, diciamo, no? Che là è, diciamo che ne costituisce, che ne è costitutivo, che è appunto l'universus, verso l'uno, sia pure come forma vuota. Il decidere non nel senso della volontà, ma nel senso proprio del taglio, il decidere, il verso del movimento, vuol dire decidere che c'è nel rapporto tra gli esseri umani, nel rapporto dell'essere umano con se stesso, nel senso dell'essere umano, nell'ontologico, nella dimensione ontologica dell'essere umano, c'è appunto un movimento verso l'universalismo dell'umanità, verso un umanesimo come riconoscersi in un l'uomo. Sappiamo tutti, dopo Foucault, che l'uomo è una creazione del moderno, anche se il termine ovviamente non è, nasce col moderno, ma l'uomo in questo senso dell'umanesimo universale è una creazione del moderno. È possibile recuperare il termine universale fuori, diciamo, invertendo questo movimento, spostando questo movimento? Io su questo, per cui sulla formula universalismo della differenza, io ho delle perplessità. Perché appunto questa è la mossa decisiva ed è la mossa che viene sempre lasciata oscurata, lasciata nello sfondo. A muovere verso l'uno è appunto la differenza, intesa però come particolarità, che si trascende in quel movimento verso l'uno. Allora, siccome io invece penso che la differenza appunto è ontologica, nel doppio senso, perché io questo non ho alcuna remora a dirlo, nel senso della differenza sessuale, cioè della specie umana che è originariamente duale, quale che sia poi la donna e uomo, sono due costrutti storico, culturali, sociali, tutto quello che vogliamo, ma la specie umana si riproduce per differenza anche nel contesto delle tecnologie, anche nel contesto della scienza genetica, quindi che non è quella, no? Soltanto l'accoppiamento tra l'uomo e i due viventi, e quindi questo è un dato ontologico, proprio che chiama da uno statuto del tutto eccezionale alla differenza sessuale rispetto alle differenze, e nel senso invece del contingente, che la differenza è costitutiva dell'essere umano singolare. E quindi differenza come concetto ontologico, quindi come concetto assolutamente forte, vorrei dire, no? Che non so quanto possa essere in questo assunto così muovere verso l'uno e quindi prevedere un movimento diverso da quello che l'universalismo prevede. Nella logica e nella ontologia dell'universalismo la differenza inevitabilmente è moltiplicazione, soprattutto nel secondo accezione, la singolarità è moltiplicazione. Ed è legata alla contingenza in un senso assolutamente limitante e limitato, con tutto il peso e il carico del limite della deperibilità della contingenza, della mortalità. E quindi il movimento è movimento esattamente dall'immanenza alla trascendenza. E l'immanenza, la contingenza, ha una funzione fondamentalmente negativa. Vado un po' en trachant, ma insomma su questo è un ambito, diciamo, di riflessione filosofica, se volete, che però ha una rilevanza enorme nella politica. Nel momento in cui noi mettiamo in questione la figura universale dell'individuo, noi non sappiamo più esattamente dare una dimensione trascendente alla singolarità contingente. Cioè, tutte le approssimazioni, incarnazione, soggetto incarnato, il corpo, sono in qualche modo ancora approssimazioni. Però questo è il punto di crisi e di critica, mi sembra fondamentale. Mi viene in mente che appunto la contingenza singolare è quella parte caduca anche nella storicità, quella che in un verso a me caro Pietro, mio zio in Grao, ha definito la sterminata polvere che il piede incontra e calpesta. Questa è la dimensione contingente della differenza singolare, che l'universalismo appunto nel trascendere consegna questa caducità. E Pietro si pone il problema: che ne è di una politica che è per l'emancipazione umana, ma nella lotta per l'emancipazione umana i molti e le molte singolari sono sterminata polvere che la lotta dell'emancipazione incontra e calpesta, perché, come sapete, è una lotta che ne ha fatto esattamente questa. La storia è storia di questo incontro, no? Di un piede che calpesta e resta sterminata polvere. E questa è la dimensione. Allora, io credo che c'è questo, insomma, la questione del rapporto tra universale, differenza al singolare, nella doppia accezione che ho detto prima, ma appunto come concetto ontologico, e differenze, è questione che, diciamo, una questione ermeneutica e anche prospettica, della prospettiva con cui poniamo i concetti dal punto di vista anche della politica, dell'orientamento della politica, che resta ancora del tutto aperta. Seconda questione, quella che anche questa che ha posto Ida e che è altrettanto cruciale. Cioè, l'universale, ho detto prima, appunto, la critica all'universale è alla normatività dell'universale. Cioè, l'universale ha questa centralità nella costruzione artificiale della politica moderna proprio perché è il concetto che regola il movimento e il rapporto tra la politica e il diritto. I diritti universali dell'uomo, dell'umanità, intesa appunto come di ogni uomo, l'uno e quindi di tutti gli uomini riconducibili a quella figura dell'uno, uomo, individuo, cittadino, l'uomo è il primo termine che decide degli altri due, sono al centro sia della costruzione della politica, il contratto sociale, sia della costruzione del diritto e del fatto che la politica fa del linguaggio del diritto nella modernità il suo linguaggio, il suo criterio, il suo principio operativo, il modo attraverso il quale opera. Beh, benissimo. Insomma, i movimenti dell'universale sono movimenti appunto di rivendicazione dell'universale e molto della diritti. Lasciamo da parte la questione appunto se nell'inclusione o invece, come dicevo prima, anche nella decostruzione e ricostruzione di questo universale, perché ci sono tutte e due le facce, non è solo inclusione nella forma preesistente, ma appunto è sua modificazione, ovviamente, via via che i movimenti e le rivendicazioni premono, allargano, modificano. La questione che mi pare più cruciale rispetto a questo, che pone anche questa, è posta dentro il dialogo tra questi tre autori, e l'autrice, i due autori e l'autrice, è: si può, anche questa di derivazione sia psicanalitica, lacaniana, ma anche foucaultiana, e io ho più familiarità con la seconda che non con la prima, oggi è possibile, e la risposta è no, assumere la, diciamo, il diritto, i diritti, i movimenti della rivendicazione, quindi tutta la costruzione politica, culturale, sociale, diciamo che la lotta per i diritti e la regolazione del diritto comporta, a prescindere, diciamo, lasciando in un'altra dimensione, separata, autonoma, quella che è la vita psichica, per dirla appunto con Butler, o la vita psichica e persino nella sua dimensione più appunto dell'inconscio, comunque, che ha a che fare con quella costruzione metastorica, no? Immodificabile dell'ordine simbolico, è cruciale per capire come la normatività opera e come costruisce i soggetti nel movimento per i diritti, no? E nella, diciamo, nella normalità di comportamenti che corrispondono all'essere soggetti di diritti, essere inclusi o essere esclusi, doversi porre su un versante o sull'altro. Se è vero che i diritti sono tali soltanto se sono incarnati, insomma, se poi hanno appunto, no? E quindi diventano non degli enunciati, ma delle condizioni di vita, di esperienza, di soggettività, allora non è impossibile interpretare la normatività solo sul piano, diciamo, storico, politico o concettuale, logico, in modo solo conscio, che attiene solo al piano della coscienza e della riconoscibilità dei codici della coscienza. Se la costruzione dell'universale come norma attinge alla ciò che siamo, chi siamo e che cosa siamo, e alla verità di chi siamo e di che cosa siamo, a uno statuto di verità e quindi al rapporto anche con le scienze, con la conoscenza come statuto di verità, questo appunto mette, attiene, anche qui o noi mettiamo in questione, in radice, che ci sia una umanità universale orientata all'uno, e allora è tutto l'impianto che viene a collassare. Io credo che c'è su questo un concetto che usa Butler a proposito dell'uso di come porsi di fronte a questi concetti così cruciali. Dice, lei dice, abbiamo le scelte, diciamo, forti, le scelte che modificano, che incidono e che non sono quelle in cui ci adattiamo all'ordine che i concetti già dispongono, possono essere due. Una, mettersi al centro del concetto stesso per appunto appropriarsene e piegarlo nella direzione che, no, che vogliamo, diciamo, della disposizione soggettiva, oppure lei dice lasciarlo appassire, spostarsi e lasciarlo appassire. Io ve la pongo perché credo che siamo, rispetto all'universale, in questa posizione. Mettersi al centro con quella mossa dell'universale differenza o lasciarlo appassire. Io ho una qualche propensione per la seconda mossa, confesso di avercela. Mi interessa anche a me, per quanto attiene alla politica, poi sì, c'ho un minuto già, come dico, una cosa che mi sta a cuore rispetto alla differenza sessuale, sempre in dialogo con Ida e Batte. E mi interessa anche a me, sempre per stare, la questione, diciamo, tutta politica, che è quella appunto posta in questo dialogo, di come porsi. Allora, è chiaro da quello che io dico, che ho detto finora, che io penso che comunque mi interessa più la, diciamo, la prospettiva dell'universale della differenza, nonostante questa problematicità che sto provando a dire, che non quella delle politiche identitarie, no? Fermo restando che noi tre siamo d'accordo e l'universalismo moderno non solo è sottoposto a critica, ma in crisi, e quindi, diciamo, sarebbe una mossa perdente ricollocarsi lì. Però dobbiamo anche sapere che quello che passa per la sinistra, diciamo, no, nel mondo, è ancora largamente attestata lì, che siano movimenti, e Butler è molto acuta qui nella critica anche ai movimenti più attuali, più contemporanei. Lei ha presente il contesto dei movimenti sulla sessualità, no? Quelli del lesbico, gay, GLBTQ, come si dice ora, ma insomma quelli postcoloniali che diceva Ida, e non solo quindi quello della sinistra illuminista e razionale d'antan. Però appunto io considero che il contesto è quello che dicevo prima, e che c'è appunto da lottare contro quella deriva identitaria e corporativa della, delle differenze, che eludono la questione della differenza. Dicevo, sul piano politico, Butler dice che uno dei compiti, a me mi sembra, il compito della sinistra è trovare una base comune tra movimenti, tra i soggetti, senza ricorrere a rivendicazioni trascendentali, perché lei, appunto, per lei trascendentale è sinonimo di tutto ciò che è predefinito e quindi prescrittivo, normativo. Allora, lei indica questa strategia della traduzione, che non è un metolinguaggio, ma appunto è il movimento, il porsi tra pratiche e lotte, pratiche discorsive e lotte anche in competizione tra di loro, non convergenti, e che bisogna invece lasciare da parte la modalità della coalizione, cioè ci mettiamo insieme per fare forza comune e poi dopo regoleremo i rapporti tra differenze, no? Ma troviamo, oppure tantomeno quella della unità, diciamo, della sintesi unitaria, che appunto. E lei dice, e la traduzione è il compito del tradurre, del porsi tra, e trovare appunto il linguaggio che traduce discorsi e lotte e rivende comunicabili tra loro, è il modo per sostenere differenze in divenire senza addomesticarle. Vedete che intanto appunto siamo sempre nel plurale, differenze. E porsi sulla linea tra il dicibile e l'indicibile, perché è lì che si gioca la partita, diciamo, ogni volta di aprire rispetto al dicibile. Questo può produrre effetti universalizzanti, le qui apre rispetto alla prospettiva di Zizek e Laclau, anche da movimenti che sono movimenti di differenza, che non hanno questa. Bene, a me questa della traduzione la sottraggo un po' all'ordine del suo ragionamento, mi sembra invece una pratica che, come diceva Ida, noi facciamo, non è che abbiamo, però su cui invece forse ci sarebbe da ragionare di più, perché non mi sembra così centrale, così diffusa, così chiara, diciamo, che questa è una strategia, una pratica politica oggi cruciale. E soprattutto mi sembra che non sia assolutamente, per dire, faccio un esempio rispetto alla soggettività politica in cui oggi sono impegnata, quella di Selle, Nichi Vendola, che per molti è SEL, anzi per la maggior parte che è SEL, potremmo dire. Io, siccome non voglio annullarmi, ne divendo, la dico che non è solo quello, perché insomma ci sono anch'io, c'è Elettra Deiana, chissà qui, c'è, no, diciamo, c'è un gioco di differenza anche lì dentro, che noi proviamo a fare, noi, alcune di noi. Però parla continuamente, appunto, costantemente di narrazione, un termine che ha avuto, ma traduzione e narrazione non è la stessa cosa. Pensare di poter fare una narrazione che tiene insieme è altra cosa da fare una pratica discorsiva di traduzione, molto più faticosa, molto più impegnativa, necessaria di una precisazione, di una dimensione analitica e teoretica che la narrazione non necessariamente prevede e richiede. Quindi questo mi interessa molto, questo discorso sulla chiudo brevemente sulla questione della differenza, su cui appunto è importante che, parlando qui due donne in fortissima relazione e vicinanza sul pensiero e la politica della differenza, esprimono però la consapevolezza che su questo c'è conflitto nel nostro mondo, nel femminismo, nella, che è il contesto, diciamo, in cui questo pensiero, da cui questo pensiero scaturigina, e quello in cui, diciamo, deve misurare la sua efficacia in modo ravvicinato. Butler ha un'affermazione davvero forte. In quanto asserzione trascendentale, la differenza sessuale dovrebbe rigorosamente essere contrastata da chiunque voglia proteggersi da una teoria che prescrive anticipatamente quali atteggiamenti sessuali saranno o non saranno permessi in una cultura intellegibile. Perché per lei, appunto, il trascendentale è la forma e la performativa, diciamo, dell'intellegibilità, e come tale, diciamo, inevitabilmente sovrasta e si impone con un abito, una camicia di forza, diciamo, ha appunto le pratiche e le soggettività e i movimenti delle differenze, e quindi anche delle donne, che per lei non è il movimento della differenza sessuale. Bene, io mi sono chiesta, ma me lo sono chiesta sul serio, il femminismo della differenza sessuale ha posto una prescrizione anticipata in quanto discorso, diciamo, cultura che ha reso intellegibile, ha prescritto una sessualità in luogo di un'altra, non l'etero, nemmeno l'omo, nemmeno la trans, transessualità o l'intersessualità, come la chiama Butler, o non si è posto invece un'altra questione, che appunto Butler tralascia, quella che non c'è modificazione possibile del piano che a Butler sta a cuore, della storia, della politica, della socialità, vogliamo dire della vita, delle esistenze, dei contesti. Non c'è modificazione possibile senza modificazione e spostamento dell'ordine simbolico. Per la differenza sessuale, per quello che è in gioco nel conflitto della differenza sessuale, che deve passare da condizione, grado zero della significazione, a significante, quindi scusatemi se poco come spostamento, ma è questo su cui il pensiero della differenza ha giocato la sua mossa. Uno può dire c'è riuscito, non c'è riuscito, ma è questo, non è la prescrizione di un ordine di intellegibilità che prescrive una sessualità o un comportamento o un modo d'essere donna e uomo, o né donna né uomo, un ibrido, l'androgino, rispetto ad altri modi d'essere definiti dall'ordine patriarcale. Qui c'è tutta l'equivoco su cui davvero bisognerebbe, secondo me, cominciare a puntualmente a fare, diciamo, dobbiamo ritornare a fare proprio ordine tra differenza sessuale come significante, donna come significato, il femminile, la donna, il genere, che è il genere, poi il costrutto del genere, e che la pratica della risignificazione ha comportato riattraversamento, la scomposizione e ricostruzione, ovviamente, del femminile, del maschile, dell'ordine del padre, dell'ordine della madre, del sì. Credo, e qui c'è un punto invece di discussione tra me e Ida, che Butler ha una qualche ragione nella sua obiezione, che è l'obiezione, appunto, che la differenza sessuale apparentemente vuota, perché appunto come tutto il vuoto, come l'universale, come significante vuoto, come tutte le forme vuote o indefinite, In realtà questo suo voto si compie mediante anche una reificazione, questa è la, riprende una critica di Marx, ovviamente, alle forme, e che appunto la reificazione è quella del reintrodurre qualcosa dell'ordine precedente, non solo per Barthes storico-sociale, io dico anche dell'ordine simbolico, ed è la discussione sull'ordine simbolico della madre. Quanto nominare madre la differenza sessuale e l'ordine, lo spostamento simbolico operato dalla differenza sessuale, lega quel significante già a un significato, alla parola madre, quanto è possibile parlare di madre simbolica a prescindere dalla madre reale. Cioè, insomma, la cosa di Lacan sul fallo e il pene la conosciamo, e quindi, certo, la madre simbolica è il fallo, no? Prende la posizione del fallo e non quella, così come il pene. Però sappiamo anche, proprio per l'ordine simbolico del padre fallico, che c'è un rapporto tra il fallo e il pene, cioè tra il simbolico del padre, della legge del padre, e il padre, il maschile, quella posizione. E quindi io su questo sono non a caso da sempre invece attestata per il significante differenza sessuale che sta appunto a quella matrice che ho detto prima. Grazie Maria Luisa, io non voglio prendere molto tempo e voglio soltanto fare alcune diciamo condensazioni, rapidissime condensazioni concettuali sui temi sui quali entrambe mi avete questionato in maniera o diretta o indiretta. Quindi, prima cosa premessa, io ritengo che il vostro modo di ragionare e il vostro modo di lavorare sui temi della differenza e sulle loro implicazioni, sto dicendo una cosa che ho già scritto, sia uno dei modi più alti che io trovo a livello internazionale. Quindi l'ho scritto ed è una cosa che riaffermo adesso oralmente. Diciamo, recentemente l'ho scritto anche in un intervento, il testo di una conferenza, Carlo Pasquinelli gliel'ho dato questo testo, una conferenza che ho tenuto qualche tempo fa a Napoli su politica, potere e potenza, e che è uscita su Outtale. Fammela vedere anche a me. L'ho data anche a te, va bene, benissimo. Tranne che Maria Luisa, ci sarà una ragione, ci sarà qualche. Allora indaghiamo. Allora, io ero, ecco, diciamo, prima questione, quando ho adottato la formula universalismo della differenza, con tutte le cose che Ida ha detto in maniera assolutamente esatta, appunto il senso ontologico, non sociologico, non culturalistico di differenza, eccetera, eccetera. Ero abbastanza consapevole, avevo anche avvertito che adoperavo una parola zombie, cioè un cadavere concettuale, una parola che camminava ma era morta. L'universale è una parola alla lettera oggi inservibile, nel senso in cui voi dicevate prima, l'universum, no? Cioè un orientamento unidirezionato, un movimento unidirezionato, è del tutto inservibile. È del tutto evidente che siamo dentro un multiversum. Il problema vero era il risvolto altrettanto reificante, il rischio altrettanto reificante di una accezione di multiversum inteso, come dice Seyla Benabib, come il multiculturalismo a mosaico. E quello è naturalmente il vero rischio. Allora, ero quindi consapevole che il termine universale, o addirittura l'ismo, universalismo, è un termine che reca in sé la pesante ipoteca della nomenclatura del politico moderno. E la reca dal punto di vista filosofico in maniera molto chiara. L'universale è trascendenza di una forma. come lo è l'universalismo giuridico, questo non c'è dubbio, è comunque trascendenza di una forma. E il problema vero, il non detto del mio discorso era la, come dire, il dislivello semantico che si veniva a determinare tra l'universale e il comune, tra un piano di trascendenza, quindi di forma, e un piano di immanenza, che è il piano del comune. E tant'è vero che io adottavo, non in passaggio occidente, ma l'ho adottata nella premessa all'altro mio libro, La passione del presente, la formula di matrice kantiana ripresa da Deleuze, sintesi disgiuntiva. Lo possiamo intendere unicamente come una sintesi disgiuntiva, il contrario del comune denominatore. Cioè, se noi pensiamo l'universale come comune denominatore, siamo dentro i dispositivi logico-ontologici di dominio, nel senso che diceva Ida, inclusione-esclusione, o i dispositivi dialettici della sostanzione, come dire, sofisticati quanto si vuole, però, in cui la differenza, il negativo, viene assunto ad maiorem dei gloriam, no? Quindi per un potenziamento dell'uno. Quindi sintesi disgiuntiva, questo simolo stava ad indicare esattamente questo. Naturalmente è un programma ancora molto provvisorio che io ho buttato giù non in dialogo, perché Ida sa benissimo come io detesto il termine dialogo, ma in un incontro, confronto con il pensiero della differenza che io e qualche altro pensatore maschio riteniamo uno dei pochi eventi non provinciali che siano stati prodotti nel nostro paese nella seconda metà del secolo scorso. E qui naturalmente, ecco, altro punto che si pone, che Ida poneva. Ciò detto, che ne è del conflitto? Come intendiamo, come intendere il conflitto? Qui naturalmente io sono d'accordo che il conflitto va, a mio parere, portato nel modo in cui noi pensiamo il simbolico. E sono convinto che il conflitto è conflitto intanto intorno alle strategie di nominazione, e questo è fondamentale, e dunque di costituzione dei soggetti, perché i soggetti sono definiti in qualche modo sulla base delle strategie di nominazione e sono in qualche modo legati a tutto quanto il complesso delle identità scrittive. E qui abbiamo non soltanto la guerriglia linguistica, Ida, abbiamo una proprio guerra nel senso clausewitziano della parola. Io sono convinto che il proliferare delle differenze culturali o religiose o eccetera oggi sia attraversato da una linea divisoria che ancora non è emersa fino in fondo, ma che è legata, secondo me, alla tematica del conflitto di senso, dove la posta in gioco è veramente la posta in gioco di una radicale ridefinizione del politico a partire proprio dal vertice ottico. Ida ha integrato, senza dire quello, ma l'ha integrato con un termine foucaultiano, autore sul quale io mantengo sempre le riserve, ma un autore che mi ha sempre molto, molto rapito, eccetera, ma è una asse sagittale di attraversamento di tutte quante le congiunture. E quindi fuori della coppia universale in particolare, naturalmente, valenza universale della differenza, è tutto, è, diciamo, la tematica che Ida prima ha messo in luce. Qui vengo a una serie di nodi che sia Ida che Luisa hanno messo in campo, e cioè, fermo restando che siamo d'accordo sul fatto che le differenze non possono essere mantenute né nella forma della modalità corporativa relativistica né nella forma della, della modalità identitaria fondamentalistica. Il problema è vedere la natura di questo attraversamento, cioè l'universale è il risultato di questo attraversamento. E quindi Butler viene recuperata dentro il discorso dell'attraversamento, non è che non venga recuperata, anche se ha toppato in modo micidiale nel dire che la differenza sessuale è in qualche modo prescrive normativamente, performativamente la cosa. L'ho detto questo in un dibattito con Lucy Rigarai che abbiamo tenuto all'interno del mio corso nello scorso anno accademico, cioè la primavera scorsa. Ho detto, dico, il due è la condizione del trans. Cioè, no, non c'è transito, non c'è intersessualità, transessualità, qualunque modalità della sessualità noi possiamo immaginare, la possiamo immaginare unicamente a partire dal dato ontologico del due. E questa è l'unica strategia, perché non vuol dire che il due prescriva una modalità di comportamento sessuale, questo qua mi pare del tutto evidente. Questo pone, a mio parere, un problema, cioè che è il problema come è possibile immaginare un universale immanente. È chiaro che il termine non regge più, cioè l'universale immanente che attraversa le diverse pratiche sessuali, pratiche politiche, pratiche sociali, pratiche di militanza, pratiche relazionali, pratiche conflittuali. Questa è naturalmente già in qualche modo la vicenda del comune. La vicenda del comune io la intendo come vicenda, diciamo, conflittuale, cioè io ritengo che il comune vada ripensato come la parola vera, o la comune vada ripensata come la parola vera di quello che un tempo si chiamava comunismo, ma nel mantenimento del conflitto, nel mantenimento machiavelliano, se si vuole, spinoziano del conflitto, cioè nel senso che, appunto, mantenendo quella bellissima formula di Machiavelli, in cui Machiavelli dice l'unica repubblica in grado di vivere, di avere un futuro, è la repubblica ardente. Una repubblica ardente deve continuare ad ardere, la repubblica ardente, non l'idea della pacificazione totale. Dove, superato alla soglia della preistoria, il conflitto avverrà sulle cose vere e non più sulla sottomissione di esseri umani ad altri esseri umani. E quello è il dato. Ma sulle cose vere, sulle grandi scelte della vita associata e via dicendo. Ma comunque vengo un attimo a uno spunto finale, e quindi sono d'accordissimo con Maria Luisa, e poi vengo però a una cosa di Ida. E l'universalismo della differenza, come io lo concepivo, recuperando però questa luce radente della lotta per i diritti, che è in grado di attraversare, la luce radente della lotta per i diritti, è in grado di attraversare le pratiche e di dare alle pratiche medesime una vitalità, quindi diritto non come forma neutralizzante, ma come forma rigenerante, rivitalizzante e via dicendo, ha a che fare in maniera stretta, Maria Luisa, col tema della contingenza. L'altra faccia dell'universalismo, della differenza come io l'intendo, è l'ontologia del contingente, dove si badi, la contingenza è la categoria ontologica privilegiata nella mia prospettiva, la contingenza è la categoria ontologica privilegiata, cioè è l'ontologia del contingente, e universalismo della differenza sono due lati della stessa medaglia. Ciò detto, siamo ancora nel prologo in cielo del discorso. Questo me ne rendo conto. C'è il passo da compiere, che è il passo che diceva Ida, ed è il passo che, secondo me, è il passo più bello, più importante anche, quello il plus valore politico delle pratiche. Qual è il plus valore politico delle pratiche che noi com'è che recuperiamo il politico, diceva Maria Luisa, al di là del moderno? Com'è che salviamo il politico al di là del moderno? Com'è che superiamo la melanconia politica e le passioni tristi in cui noi oggi ci troviamo? Ebbene, sicuramente attraverso il tema dell'autorità. E io sono abbastanza convinto che una delle mosse decisive del pensiero della differenza sia stata controtendenza la riabilitazione di un concetto ipotecato, pregiudicato come il concetto di autorità, nel senso dell'auctoritas augere, augmentum, una eccedenza simbolica che in qualche modo è in grado di spiegare come si formano i meccanismi di potere, ma è in grado anche di attraversarli e di farli esplodere dal loro interno. Cioè il problema fondamentale è che il potere implodendo ci manda a morte tutti. Se noi lo facciamo esplodere il potere, forse abbiamo qualche speranza, il che naturalmente significa anche una grande capacità di rendere immanente il discorso dell'eccedenza simbolica. Eccedenza simbolica, qui chiudo perché io sono, anche io, ho usato dei termini lacaniani o paralacaniani, sono d'accordo con Maria Luisa che è un ostacolo alla discussione filosofica e ontologica contemporanea questa sorta di, come dire, presenza massiccia di Lacan, che io trovo sicuramente un autore importante e imprescindibile del post-freudismo. Sicuramente il tema della forclusione, della ferverfung, della reiezione, no? È un tema importantissimo. Oggi i soggetti che dobbiamo recuperare in politica sono i reietti, innanzitutto a livello globale. Cioè, ritengo importante il trinomio reale, immaginario, simbolico, sicuramente. Sono però convinto, mi è capitato di dirlo, che su un punto Lacan non mi convince, è il fatto che sia una elegantissima e profondissima e straordinaria, geniale, ritrascrizione linguistica della prima topica freudiana. Non abbiamo con lacanismo una analisi di come si costituiscono le logiche identitarie, di come dal proliferare delle differenze abbiamo il ripiegamento nelle logiche identitarie. E perché questo? Perché questo è un tema che Freud ha affrontato nella seconda topica, dopo il 1920, quando ha superato conscio e inconscio e è andato a vedere la tripartizione del sé in es, io e superio, e ha posto al centro la costituzione del soggetto, come si costituisce l'identità del soggetto, identità individuale e identità collettiva. Tra parentesi, Kelsen, un grande giurista del XX secolo che faceva anche le vacanze insieme a Freud, oltre che era tra i pochi a frequentarlo nella Grande Vienna, Kelsen in realtà è da lì che tira fuori tutta quanta la critica alle maschere totemiche dell'identità, l'identità del popolo, l'identità dello Stato e via dicendo. Quindi uno scenario secondo me che dovremmo un po' riprendere perché a mio parere ha molto a che fare con quello che voi del pensiero della differenza avete insegnato anche a noi maschi, ma che a mio parere va ricondotto a una nuova fase del lavoro comune proprio per valorizzare il tema della eccedenza simbolica e dell'autorità.